Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Mi piace sedermi qui. Sono a Ginevra, una delle città più ricche del pianeta. So, come lo sa la maggior parte della gente, che passeggiando per le strade di questa città si calpestano montagne di lingotti d'oro stipati sotto il suolo dalle banche. Non che cambi molto nella nostra attività di passanti. Sto camminando con mio figlio Pierre, adolescente, che ora abita qui con la mamma e frequenta la scuola francese. Dopo molte peregrinazioni nella città vecchia, nel grande spazio vuoto di Plein Palais in mezzo alla città, dove il sabato c'è il mercato delle pulci e a volte montano il tendone del circo, lungo il lago, lungo il Rodano, lungo l'Arve, che mescola le sue acque con quelle del Rodano e affascinava lo scrittore Jorge Luis Borges. Dopo tutto quel girovagare, adesso, prima di cena, Pierre vuole mostrarmi un suo luogo intimo, dice, un suo posto segreto. È una sera del suo primo autunno in questa città, dove io pure ho vissuto qualche anno dopo la laurea, facendo ricerche all'università. Confrontiamo i suoi riferimenti con i miei ricordi, le nostre rispettive mappe interiori, il suo bar, il mio bar. Abbiamo visitato il MAMCO, Musée d'Art Moderne et Contemporain. Gli ho fatto vedere i lavori magnifici e misteriosi di Claudio Parmigiani, le delocazioni ottenute inondando di fumo uno spazio chiuso e facendo emergere nel grigio uniforme le tracce bianche lasciate dalla sparizione delle cose, le tracce dell'assenza. Abbiamo visto una mostra di John Armleder, per lo più installazioni d'oggetti. L'arte pop e contemporanea di solito piace ai ragazzi. È d'altronde su uno dei cartoncini della mostra che ho scritto questi appunti. Siamo ora nelle Rue Basse, le vie commerciali del centro, non lontane dal lago, dove le banche e i palazzi di uffici lasciano posto a negozi di moda, boutique, supermercati di lusso, grandi magazzini, cioccolaterie eleganti, altre installazioni d'oggetti, altre esposizioni. Da tempo assistiamo a una museificazione del mondo. Difficile trovare un luogo che faccia eccezione. C'è molta gente per strada e mi chiedo quale sia il posto segreto di mio figlio in tanta calca. Finché, nell'affollata Rue du Marché, riservata ai pedoni e alle rotaie, sgusciando tra la gente indaffarata a comprare e quella che aspetta il tram, Pierre mi indica alcune panchine di legno chiaro e ci sediamo su una di esse. Davanti alle fermate dei tram, nel crocevia dello shopping, questa sua confidenza mi sembra pura poesia. Ciò che per un ragazzo è sempre uno strano mistero. Sedersi lì, sulla panchina, significa non farsi trascinare dalla corrente, non fare la coda a una cassa, non provarsi abiti, non indicare le vetrine, non salire nemmeno sul tram quando arriva e si ferma lì davanti, non essere una di quelle persone che ci circondano in piedi e che ordinatamente, ritmicamente, scompaiono salendo sul tram come il risucchio delle onde del mare che si infrangono a riva e poi si ritirano. Sedersi su quella panchina significa diventare di colpo invisibili, perdere tempo, cioè guadagnarlo. Paralleli alla Rue du Rhône, Siamo nell'occhio del ciclone della strada di maggiore passaggio della città. I tram che scorrono nei due sensi conducono alla stazione, allo stadio, a Carouge, oppure in Francia, passando per Chêne-Bougerie e altri quartieri residenziali. Nelle ore d'uscita dal lavoro sono carichi quindi di frontalier, pendolari della dogana. Di fronte alla nostra panchina c'è il Globus, un grande negozio di alimentari che comprende anche vari ristoranti, tra cui uno cinese, uno salutista e una pasticceria. Alle nostre spalle c'è il Bon Genie, emporio anch'esso con ristorante, e la cioccolateria Mercure, negozi di abiti, di scarpe, gioiellerie, grande flusso di persone sperse nel vortice dei regali di Natale. Al rumore metallico del tram, lieve e discreto rispetto allo sferagliare di milanese e neorealistica memoria, si aggiunge ogni tanto il campanellino da vacca svizzera, azionato dal conducente per scansare un pedone. «Mi piace sedermi qui», dice mio figlio mentre rinviamo ogni volta il tram con cui dobbiamo rientrare nella sua nuova casa. Quella panchina è il suo luogo segreto, nascosto dalla sua evidenza. Guardiamo il mondo e gli umani affaccendati come un paesaggio e provo con lui una beatitudine complice e silenziosa. Mentalmente modifico il giudizio perplesso, a volte negativo, di tanti suoi insegnanti con cui ho parlato il giorno prima, troppo disinvolto, non curante. Quando entra in classe commenta ad alta voce la luce della giornata, come un personaggio di Robert Balser, poetico e disadattato. E visto che parliamo anche di questo, penso che quella panchina gli insegna, tra gli altri, il valore della lentezza, come raramente si impara dalla scuola. Eppure la cultura, la letteratura soprattutto, in fondo non è altro che questo: fermarsi, lasciare scorrere il mondo, guardarlo, guardare anche un po' se stessi. Una piega del mondo. Due anni dopo sono a Linosa, un'isola giù in fondo al Mediterraneo, più a sud di Tunisi, ma a frazione del comune di Lampedusa, provincia di Agrigento. È estate, c'è il mare più intenso che abbia mai visto, un'acqua limpida, ricchissima di pesci colorati, scogliere e baie magnifiche, case color pastello incorniciate di colori, tre vulcani, terra rossa, fichi d'India, capperi. Per tranquillizzarmi, prima di partire avevo cercato delle immagini di Linosa in internet. Avevo paura di sentirmi perso e annoiato, oppure come in uno di quei disegnini delle isolette dei naufraghi, sotto l'unica palma e i pescecani intorno. Tra le bellissime vedute delle coste mi ero imbattuto nella foto della farmacia del paese, con davanti due palme e un albero di ficus. Quello che non sapevo era che all'ombra di quegli alberi ci fossero due panchine, una agli stelli tradizionali di legno e un'altra colorata. In breve, quel punto dell'isola è diventata la postazione in cui l'estate scorsa a Linosa ho passato molti momenti di ozio e contemplazione. Anni di abitudine mi guidavano. Su quelle panchine avevo scelto per me quella colorata. Non facevo assolutamente niente. Raramente leggevo il giornale, che del resto arrivava molto tardi, mentre alla lettura di libri erano già deputati il bar sull'unica spiaggetta o quello sul porticciolo. Fu comunque un'attrazione a prima vista. Erano quasi sempre libere e all'ombra, su un piano rialzato rispetto alla strada, come un podio. All'inizio il richiamo di quella panchina aveva l'alibi di un'attesa. Mi sedevo ad aspettare che aprisse il negozio di alimentari, oppure la tabaccheria, o che arrivasse il giornale con la nave delle 16:30, o che si smaltisse la fila all'ufficio postale, cose così. Spesso era un luogo di sosta, in cui divoravo quasi metà del pane che dovevo portare a casa, sfilatini ancora caldi e teneri, ricoperti di semi di sesamo. Lo masticavo poco alla volta in contemplazione di qualsiasi cosa, dell'aperto, del puro vedere davanti a me. Il cielo era sempre azzurro e terso, i muri delle case colorati. Guardavo anche la colonia di gatti magrissimi, accuditi dalla farmacista che avevano la loro casa ai piedi del ficus. I più piccoli sfruttavano come cuccia le conche naturali del tronco, prodotte dal complicato intrico di fusti avvinghiati tra loro. Ogni tanto uno di loro si arrampicava sulla panchina ad annusarmi o farsi accarezzare. A fianco della farmacia c'era un'altra porta, quella della guardia medica. Quando non c'erano pazienti, ogni tanto un medico usciva a fumare una sigaretta in silenzio sull'altra panchina. Il marciapiede sopraelevato in cui si trovavano le panchine era all'incrocio delle due strade principali, o meglio, le uniche strade. Quella che attraversava l'isola e il paese nell'interno e quella costiera. L'incrocio era una specie di piazza e non a caso lì vicino c'erano la chiesa, la posta, il comune, una vineria e un bar che apriva la notte. Senza volerlo né saperlo, le panchine erano il centro ortogonale dell'isola. Quella agli stelli colorati era semplicemente bella e la sua attrazione all'inizio era puramente poetica. Era bello sedersi lì, guardare le case e il cielo, gli arabeschi del tronco del ficus, le palme, i muri dipinti di giallo, di verde, di rosso, di blu, di arancione, il rado traffico ravvicinato di motorini, le rare automobili che passavano e dopo qualche giorno mi accorgevo di conoscere un po' tutti di vista, a partire dal prete e dal segretario comunale. Sull'altro lato della piazza c'era un muretto dove si sedevano alcuni uomini anziani col cappello, i volti segnati dal sole e dall'aria. Anche loro non facevano nulla, non parlavano quasi mai, stavano semplicemente seduti e tutt'uno col paesaggio. La loro immobilità non aveva niente di passivo né di rassegnato, e anche quando uno dei vecchi chiudeva gli occhi e verosimilmente sonnecchiava, non perdeva in nessun modo il dono della presenza né la dignità della sua postura. C'era caldo, si sentiva tutta l'estate del Mediterraneo, ma anche io sulla mia panchina mi sentivo vivo e presente. È il potere delle migliori panchine quando sono ben situate. Una buona panchina fa sentire al riparo chi vi siede e fa apparire il suo ozio come un'attività non soltanto legittima, ma di qualità superiore, da intenditore. Un po' come quando al ristorante uno ordina un piatto molto semplice e il cuoco gli fa capire di considerarlo un buon gustaio. A me capitava in un certo posto a Parma, con radicchio verde e l'uovo sodo. Una panchina perfetta è come una piega del mondo, non un luogo nascosto, ma una zona franca, liberata o salvata, dove semplicemente sedersi è già in sé una meditazione. Quella di Linosa, di fronte alla farmacia e alla guardia medica, sotto gli unici alberi del paese, era una panchina perfetta. Verdi a onda. Lo si sarà capito, ma lo dico lo stesso. Io sono uno di quelli che si siedono sulle panchine, non solo nei belvedere o sui poggi panoramici di fronte a un lago o sul lungomare, ma anche nei parchi, nei giardinetti, nelle piazze, nei viali, negli interstizi tra le case, negli angoli, in centro, in periferia, alle fermate dell'autobus senza salire sull'autobus e anche sotto casa, ovunque. Potreste avermi visto, magari di sottecchi, o più probabilmente avete evitato di guardarmi, perché nelle nostre città, da qualche tempo, chi si siede su una panchina non è più soltanto anonimo, diventa invisibile. Lo scrittore Luciano Bianciardi raccontò che nella Milano dei primi anni Sessanta, quella del boom economico, fu arrestato per strada perché camminava troppo lentamente, perché strascicava i piedi. Ben prima che fosse detta da bere, a Milano Bianciardi vedeva la gente che corre, che si dibatte, che ti ignora, che deve arrivare e che per di più si sentono privilegiati. Oggi stare in panchina è un'anomalia sociale più grave. Chi si siede si sottrae non solo alle regole non scritte della produttività e dell'efficienza, ma anche allo sguardo degli altri. Se non si è anziani, donne incinte o con carrozzina, se si è maschi o femmine adulti, chi sta seduto su una panchina è poco raccomandabile. Nel migliore dei casi è un disoccupato, uno sfaccendato, vita di riserva da ignorare. Per molti che a stare seduti su una panchina provano imbarazzo è l'immagine della provvisorietà, della precarietà, forse del declino. Stare in panchina, nel lessico attuale, è il contrario dello scendere in campo. Ma la panchina è l'ultimo simbolo di qualcosa che non si compra, di un modo gratuito di trascorrere il tempo e di mostrarsi in pubblico, di abitare la città e lo spazio. La panchina è un luogo di sosta, un'utopia realizzata. È il margine sopraelevato della realtà, vacanza a portata di mano. È anche il posto ideale per osservare quello che accade. Non è necessario che sia sullo Stelvio o sulla Promenade des Anglais, anche se è bello vedere di schiena qualcuno seduto sulla panchina con lo sfondo delle montagne o del mare o dei grattacieli di New York. È sufficiente la bellezza del sedersi su una panchina in città e guardare una strada o una piazza, guardare la gente che si muove, che vive, guardare l'autobus che passa, guardare i piccioni, guardare le nuvole sopra la testa. Lo scrittore francese Georges Perec lo ha fatto per interi pomeriggi, seduto a Parigi in Place Saint-Sulpice, negli anni 70. Le pagine che riportano le sue osservazioni, tentativo di esaurire un luogo parigino, sono una lezione di scrittura e di felicità mentale, un lavoro di accettazione di sé e del mondo, di semplificazione dello sguardo, sforzarsi di guardare più piattamente. Insegnano, fra l'altro, che ovunque si trovi, la panchina è, per chi si siede, il centro dell'universo. Sulle panchine si contempla dunque lo spettacolo del mondo. Si guarda senza essere visti e ci si dà il tempo di perdere il tempo, come leggere un romanzo. Ecco alcuni dei non piccoli piaceri del sedersi su una panchina. Infine, è molto semplice. Le panchine sono i posti in cui si siede la gente, proprio come le periferie su cui si sono stratificate tante chiacchiere di esperti. Non sono altro che i luoghi in cui abita la gente. Le mie preferite sono quelle verdi a onda di una volta, di legno, in via di estinzione. Ma tutte le panchine sembrano oggi in via di estinzione, come se la loro gratuità, la loro grazia, nel nuovo orizzonte del welfare fosse assolutamente da bandire. Bandire. La stessa parola da cui viene banlieue, luogo bandito. Vorrei davvero che non accadesse, che ci si possa sedere ancora a lungo e forse sempre, in qualsiasi luogo ci piaccia, liberamente. È bello sedersi dove capita, è bello sedersi. Contentezza, sedere con un bambino su uno scalino al sole, di fronte alla fermata dell'autobus, scriveva Peter Handke in un libro di frammenti. Le panchine, mi ha detto qualche tempo fa l'artista Enzo Cucchi, sono necessarie, semplicemente necessarie. Una volta ad Ancona, dove la municipalità lo aveva invitato per acquistare delle sue opere, Cucchi notò che non c'erano abbastanza panchine su cui sedersi all'aperto. Realizzò dei prototipi di panchine e li diede alla città, chiedendo di convertire e devolvere il suo compenso nella realizzazione effettiva di panchine pubbliche. Che le panchine siano necessarie lo mostrano i tanti scrittori che hanno raccontato le panchine, da Victor Hugo a Samuel Beckett, da Henry James a Mikhail Bulgakov, da Robert Louis Stevenson, che fa accadere su una panchina la trasformazione del dottor Jekyll in Mr. Hyde, a Thomas Mann in Cane e padrone, e tanti altri. Di recente, in una libreria francese, mi sono imbattuto nell'unico romanzo di Fred Vargas che non avevo letto, Un peu plus loin sur la droite, una storia poliziesca in cui l'eroe ha la sua sede nella panchina numero 102, a Place de la Contrescarpe, e può contare sulla complicità della variopinta popolazione delle panchine come di una rete efficacissima di spie e di detective. Si chiude su una panchina, l'amore che Dostoevsky racconta in Le notti bianche. Si apre su una panchina Bouvard e Pécuchet, precisamente la stessa panchina in cui simultaneamente si siedono, in Boulevard Bourdon, gli eroi epistemologici del meraviglioso e incompiuto romanzo di Gustave Flaubert, monumento epico all'inutilità del sapere e della cultura, dove fallimento e riuscita diventano la stessa cosa. Ho sempre pensato che gli eroi ridicoli e commoventi di Flaubert siano gli antesignani di Stanlio e Ollio, e innumerevoli sono le panchine che scandiscono le surreali avventure dei due celebri emarginati e vagabondi. La panchina, per Stan Laurel e Oliver Hardy, è il luogo, a volte magico, di una deriva tragicomica, e i loro continui, esilaranti fallimenti dicono la poesia di un nomadismo che resiste, anarchico e irriducibile, all'imperativo dell'ordine e del successo. Anche nel cinema le panchine resistono al disprezzo sociale, in storie che costituiscono una resistenza culturale all'omologazione, sia sociale che psicologica. Per non citarne che alcuni, penso a quella di La 25esima ora di Spike Lee, dove Edward Norton medita su una panchina il suo ultimo giorno di libertà prima del carcere, o a quella di Forrest Gump, eroe e quasi santo in rotta coi valori dominanti, che racconta la sua storia seduto su una panchina mentre aspetta l'autobus. Se qualcuno ha suggerito che anche il luogo della serie TV Friends, un bar di Manhattan che si alterna a un appartamento, è quasi una metafora delle panchine pubbliche, è proprio una panchina il sito di celluloide divenuto icona del paesaggio newyorkese tra sogno e realtà. Parlo ovviamente della panchina di Sutton Place che Woody Allen ha immortalato in Manhattan, dove lo si vede in smoking, seduto di schiena, ad aspettare l'alba con Diane Keaton sotto Queensborough Bridge, ammirando come il viandante del romantico Friedrich non le Alpi ghiacciate, ma lo skyline di New York. Segnalo anche la disperazione urbana di un alcolista descritta di recente in The Bench dal regista danese Per Fly. È la versione cinematografica di Claude Chabrol di La panchina della desolazione di Henry James. Già prima che cominciassero a sparire, avevo iniziato il catalogo delle panchine che ho amato, quelle del Parco Ducale di Parma, dove, guardando gli alberi e la gente, scrissi le mie prime poesie, quelle di Bologna, vicino all'università, isole nelle tempeste, quelle di tutti i centri storici, vicino alle immancabili fontane, quando era normale incontrarsi nei centri storici e stare sulle panchine, e c'era un senso di colorata appartenenza. Le panchine incontrate per caso a Milano, in un ricco quartiere dietro via Solferino, dove imparai il valore del riposo, guardando il pranzo di immigrati nordafricani a base di pane e sardine, ma anche il valore d'uso di un luogo imbalsamato dalle algide e lussuose residenze, le panchine di Lerici e del Golfo dei Poeti, il lungomare della mia infanzia, le panchine di Ravello, un luogo già interamente votato al lusso dell'ozio e della contemplazione, le innumerevoli panchine in cui ho soggiornato nei parchi di Parigi, nei suoi squares, sui suoi marciapiedi, quelle sul Gianicolo o a Villa Borghese, a Roma, a Villa Sciarra, Villa Panfili, quella sulla sommità della Scala del Tamburino, su via Dandolo, oggi scomparsa, quelle di Piazza Dante, dietro Piazza Vittorio, quelle, sempre a Roma, del Cimitero dei Poeti, al Testaccio, dove sull'erba, di fianco alla tomba di John Keats, si contempla la piramide e il traffico irreale di auto, ma anche in via della Magliana, semiperiferia romana non priva di dolcezza, dove si siedono anziani e immigrati, a Villa Torlonia, dove mi addormentavo al mattino dopo notti intense, come possono essere quelle di un poeta ventenne di provincia, per di più innamorato. Il mio elenco rischia di assomigliare, ben oltre le mie intenzioni, a una specie di autobiografia. Una vita in panchina. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.